Euroreportage. In Europa, poco dialogo tra scuola e impresa, di Alessandra Schepisi. Ignorano ciò che serve per lavorare, non sanno riversare le proprie competenze nei contesti aziendali. Insomma, i giovani italiani sono poco adatti al lavoro, ma la colpa non è loro, bensì della scuola. Affermazioni forti, quelle contenute nel rapporto McKinsey, un'indagine sviluppata dalla società di consulenza americana sul rapporto tra educazione e occupazione in Europa e presentata a Bruxelles a metà gennaio. La disoccupazione giovanile è certamente alta, dicono i ricercatori, ma dipende anche dal mancato dialogo tra sistema educativo e imprese. Insomma, spesso il lavoro c'è, ma le aziende non trovano i lavoratori giusti e i giovani, quelli giusti, non si fanno trovare. E l'Italia è il paese in Europa dove domande e offerte di lavoro meno si incontrano, dove scuola e impresa meno dialogano. E allora noi ci chiediamo innanzitutto se tutto questo sia vero e se è vero perché. E lo chiediamo a Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria per l'Education. In larga parte è così, è un tema annoso di cui si dibatte da tempo e senza trovare soluzioni strutturali. Siamo molto in ritardo rispetto ad altri paesi. Noi pensiamo che la disoccupazione giovanile sia solo un tema legato alla congiuntura economica. In realtà non è così, c'è un dato di disoccupazione che dipende dalla crisi economica, ma c'è un dato molto più rilevante che è strutturale e importante, che dipende da un sistema nel quale il sistema educativo e il mondo del lavoro non riescono a dialogare. Ecco, perché in Italia non riescono a dialogare o perché in Italia dialogano di meno rispetto ad altri paesi? Guardi, ma non solo negli altri paesi, anche altri paesi come la Spagna, la Grecia, il Portogallo si trovano in situazioni abbastanza omogenea alla nostra, e non a caso sono i paesi che stanno più soffrendo la crisi economica e hanno tassi di disoccupazione giovanile molto alti. Su questo dovremmo riflettere. Il tema è abbastanza complesso, nel senso che il sistema scolastico, che ha sicuramente delle grandi eccellenze nel nostro paese, e però è un sistema che è stato costruito pensando che i ragazzi debbano conoscere il mondo del lavoro solo dopo la fine del percorso scolastico. Un ragazzo tedesco entra nel mercato del lavoro mediamente a 22 anni, i nostri non prima dei 25, 26, 27. Quando arrivano a quel percorso hanno avuto sì e no qualche piccolo stage in qualche azienda, quindi non conoscono il mercato del lavoro, non conoscono le aziende, cioè non conoscono quelle strutture che in qualche modo riguarderanno il loro percorso di vita dopo il percorso scolastico. E su questo noi abbiamo due questioni fondamentali che vanno messe in campo. Da un lato dobbiamo migliorare l'orientamento dei ragazzi, perché un buon orientamento potrebbe superare questo mismatch tra education e lavoro. E poi c'è la necessità di accompagnare questi ragazzi nel mercato del lavoro attraverso strumenti di placement, centri per l'impiego, che nel nostro paese non funzionano. Noi dobbiamo mettere insieme percorso educativo e percorso lavorativo. In Germania gran parte dei ragazzi conoscono l'azienda già durante il percorso formativo. Il tema centrale. Noi dobbiamo guardare un po' agli altri paesi e mettere in campo un meccanismo in cui i ragazzi già dalla scuola secondaria superiore, sia essa liceale, tecnica, professionale, devono incontrarsi in qualche modo con l'azienda. C'è però troppa licealizzazione nel nostro paese, occorrerebbe puntare di più, rilanciare gli istituti tecnici e professionali, secondo lei? E abbiamo in qualche modo messo ai margini l'istruzione tecnica, che è stata nel nostro paese invece il grande motore della crescita economica dalla seconda guerra mondiale in poi. Abbiamo bisogno di un equilibrio, di una pari dignità sociale ed educativa fra questi due pezzi del sistema scolastico. E allora sentiamo l'esperienza concreta di un imprenditore, Antonio Perdighizzi, presidente dei Giovani Imprenditori di Catania e titolare della TRI, una start-up nata nel 2011 per offrire servizi di formazione alle persone e alle aziende. Io mi occupo di un settore che peraltro è abbastanza affine, proprio sulle risorse umane e l'economia della conoscenza. In questo senso le risorse che cerco possono provenire proprio da quelle lauree e da quelle facoltà cosiddette deboli, quindi con della natura umanistica, però mi rendo conto che tutto il loro percorso di studi non hanno mai affrontato magari alcuni argomenti come quelli della didattica innovativa, dell'e-learning, che oggi sono i temi principali nel settore delle risorse umane e dell'education. E allora, più orientamento, più stage formativi per indirizzare i ragazzi alle professioni del futuro sin dai banchi di scuola, come avviene nel resto d'Europa. E ancora più formazione tecnico-professionale, meno licealizzazione, dicono gli imprenditori. Ma i giovani cosa ne pensano? Ci spostiamo allora davanti a un liceo classico, quello da sempre ritenuto più lontano dal mondo del lavoro, liceo classico Albertelli di Roma. Perché non si trova lavoro? Perché non ci sono politiche che vanno a favore dei giovani. Liceo classico, secondo te, in un momento come questo, anche di crisi occupazionale, ha un suo valore? Liceo classico per me penso sia quello che dà una formazione più corposa e che poi può portare a avere dei risultati migliori, però a livello generale il liceo classico dà una formazione molto più ampia e quindi per lo studente è più facile poi orientarsi. A lungo termine comunque paga per studiare. Sì, sì, a lungo termine porta comunque dei vantaggi. Poi alla fine il lavoro, secondo me, se sei bravo lo trovi. La formazione del liceo classico è una cosa unica, nel senso, perché attraverso gli studi dei greci, insomma degli antichi, dei classici, cioè proprio uno riesce a entrare a contatto con delle realtà sicuramente ancora attuali e che possono dare una formazione molto più completa rispetto a qualcosa che è più specializzato, è meno completo, diciamo, secondo me, come quello per esempio di un istituto tecnico, che poi chiaramente può dare una formazione più specifica però non completa quanto quella del liceo classico. Quindi a lungo andare credo premia che... di più. Sì. Diciamo che il classico ci apre molto la mente, molto anche il modo di ragionare. Dagli amici che abbiamo che fanno scuole diverse vediamo che, cioè, a parer mio siamo un po' più aperti mentalmente anche alla riflessione, queste cose così. Ne ragioniamo quando vai a fare i test, la logica, comunque molte cose le capisci, il sillogismo. Insomma, il classico fornirebbe un bagaglio culturale che a lungo termine paga, mentre il rapporto McKinsey-Bacchetta, il nostro sistema scolastico nazionale, che a differenza di altri paesi europei non fornisce le specifiche abilità tecniche spendibili nel mercato del lavoro. Ma davvero scuola e università devono preparare per ciò che gli imprenditori chiedono? Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. A me pare che questa indagine, dico, di McKinsey in realtà metta in luce degli aspetti, alcuni dico rilevanti, si capisce, ma soprattutto non mette in evidenza che in realtà i giovani italiani che ignorano quello che serve, dico, per lavorare sono una cosa, dico, diversa, perché noi mandiamo molti più gente all'estero di quanto non siano quelli che vengono in Italia, di quanto non siano, dico, gli stranieri che vengono in Italia. La seconda cosa è, noi siamo un paese nel quale la gran parte dei manager non ha un titolo di studio che supera il livello della scuola, dico, secondaria. E questo che significa? Che per fare il manager, che non serve la laurea per fare il manager? Vuol dire che in Germania, per esempio, in Germania i manager sono molto di più. Evidentemente vuol dire conoscere molto di più, non soltanto i rapporti, dico, internazionali, conoscere le lingue, conoscere internet, eccetera, eccetera. E questo è un elemento che mi sembra molto importante. Lei pensi che in Germania sono 44% dei manager che hanno la laurea o un titolo superiore, da noi sono il 15%, e la scuola dell'obbligo, mentre in Germania fra i manager è soltanto diffusa nel 7% dei casi, da noi è il 37%, ma è evidente che qui c'è una, in qualche modo c'è una versione, diciamo così, una lettura, dico, del problema, che dipende ancora una volta sempre e soltanto da quello che vogliono le aziende. Ma le aziende non sono capaci oggi di guardare per bene a che cosa hanno bisogno, perché in realtà il problema è sempre quello, e cioè il problema è che se non hai delle aziende con gente capace, naturalmente, e noi ne abbiamo naturalmente una parte soltanto, ma sono però, dico, la minoranza. Se non abbiamo un'azienda capace di fare queste cose, è evidente che il rischio è molto forte. Lei pensi che Schleicher, che è un tedesco, che è direttore dell'OCSE, che cos'è che dice? Oggi i sistemi di istruzione debbono preparare per lavori che non sono stati ancora creati, per tecnologie che non sono state ancora inventate, per problemi che ancora non sappiamo che nasceranno. Cioè l'evoluzione nel tempo è stata così rapida che mentre un tempo quello che usciva con qualche capacità poteva esercitarla per tutta la vita, oggi in realtà c'è la necessità di una sorta di continuo affrancamento, di continuo studio, di continua ricerca, e questo purtroppo il paese lo sta perdendo. Quindi il sistema dell'istruzione, come dire, non si deve adattare alle richieste degli imprenditori. I ricercatori McKinsey dicevano occorre incoraggiare gli educatori a insegnare quello che gli imprenditori richiedono. Se così fosse, il laureato, il giovane che decide di iscriversi all'università oggi, uscirà, nella migliore delle ipotesi, se fa soltanto la laurea di primo livello, uscirà fra 4 anni. Se fa, come la gran parte fanno, la laurea di secondo livello, quindi quella specialistica, uscirà fra 5, 6, 7 anni. Ma fra 7 anni c'è un solo imprenditore in Italia in grado di sapere che cosa dovrà affrontare? E quindi noi siamo in una situazione nella quale quello che dice McKinsey, dico sì francamente, è vecchia come il cucco, è superata. Noi dobbiamo fare molto di più e molto meglio. E il paese, se il paese si trova in questa condizione, purtroppo, perché deve inventare il nuovo in qualche modo, deve mettersi a dialogare con gli altri, deve investire molto di più nella sola, dico, istruzione, dico, secondaria, e soprattutto in quella, dico, universitaria, e nella ricerca e sviluppo, altrimenti non ce la fa. Insomma, un dibattito aperto, posizioni diverse, ma una cosa è certa, occorre investire di più nel nostro sistema di istruzione e formazione. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.